Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Caro Energia, il piano delle regioni presentato al governo un progetto per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi e favorire l'indipendenza dai fornitori esteri. Varzil, rinviato di una settimana il processo per condotta antisindacale intentato dai lavoratori. Le navi che dovrebbero caricare i motori per Varzil restano ancora in rada. Superbonus, si riparte, il Parlamento sblocca lo stallo sulla cessione dei crediti, le aziende del settore respirano ma giudicano la situazione ancora con molta cautela. Piano risparmio del Comune di Udine, meno illuminazione su alcuni spazi pubblici, probabile chiusura di una piscina e farà più freddo anche al Pala Carnera. Auto elettrica, un mercato che non cresce, i prezzi alti e lo stop ai contributi regionali frenano gli acquisti. Inaugurato Pordenone Legge, centinaia di eventi da qui a domenica. Tra i primi ospiti della festa del libro con gli autori, il magistrato Edmondo Bruti Liberati. I processi mediatici, dice l'ex procuratore di Milano, sono una grave distorsione, fanno male alla giustizia e fanno male all'informazione. Musei Verdi, un patrimonio da conservare e valorizzare, i direttori di alcuni dei principali giardini storici italiani ed europei, dal Boboli di Firenze alla Reggia del Caserta, a confronto a Miramare. Supercoppa di A2 di basket, doppio successo friulano, Udine batte Ferrara, Cividale si impone su Mantova, sabato al Pala Carnera il derby che vale il primato. Le 7:20 minuti di giovedì 15 settembre, buongiorno da Anna Daciocchi e Andrea Vardanega che condurranno la prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il cielo è da nuvoloso coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 6. Abbiamo 24 gradi a Trieste dove il mare è quasi calmo e una temperatura di 24 gradi e mezzo, a Udine ci sono 21 gradi, a Gorizia 20 gradi e 5 decimi, a Pordenone 19, in montagna Tolmezzo 18, Tarvisio 16, Piancavallo 15 e mezzo, Forni di Sopra 14 e mezzo, Sappada 12, sull'Ossari 11 gradi e mezzo e sullo Zoncolan 11 gradi. Tornando sulla costa, a Lignano e a Grado abbiamo 25 gradi e la temperatura del mare è di 23 gradi e 5 decimi. Le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia: sulle zone occidentali avremo cielo variabile, su quelle orientali cielo in prevalenza nuvoloso con rovesci e temporali che saranno più frequenti rispetto alle zone ad ovest e potranno determinare piogge abbondanti, specie al confine con la Slovenia. Rovesci e temporali saranno più probabili dal pomeriggio. La previsione rimane comunque incerta. In primo piano le proposte della conferenza delle regioni al governo centrale per mitigare l'impatto della crisi energetica sulle aziende, proposte che si muovono su un doppio binario: tamponare l'emergenza da un lato e dall'altro fare passi in avanti strutturali per ridurre la dipendenza dalle fonti straniere. Un piano da attuare in due tempi: prima le misure operative per far fronte subito all'emergenza, poi quelle di medio-lungo periodo per incentivare l'autoproduzione di energia rinnovabile. Ha molto di Made in Friuli Venezia Giulia il pacchetto di proposte che il presidente della conferenza delle regioni Fedriga ha illustrato prima alla stessa conferenza, poi al governo, per salvare le aziende dalla crisi economica innescata dal caro energia. Un peso, quello del gas naturale in Italia, divenuto insostenibile sia per il settore della distribuzione di energia sia direttamente per la manifattura. La tenuta dell'industria nazionale è fortemente a rischio e su questo cupo scenario si innestano le proposte che vanno oltre il decreto aiuti bis, facendo leva sul sistema del credito e sulla rateizzazione dei pagamenti. Per dare un immediato sollievo, tra le misure più importanti da adottare subito, l'aumento del credito d'imposta destinato non solo alle industrie o aziende energivore, ma anche alle piccole imprese, almeno fino a dicembre del 2022, il potenziamento del microcredito solo per le piccole aziende per aumentarne la liquidità, un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, il congelamento degli effetti sulla contabilità societaria, l'estensione della rateizzazione delle bollette e il disancoraggio del prezzo dell'energia elettrica da quello del gas. Tra le altre azioni proposte dalla Conferenza delle Regioni, ma a medio termine, l'incentivazione dell'autoproduzione di energia rinnovabile, l'accelerazione di provvedimenti che favoriscano una rapida installazione di impianti fotovoltaici e misure più efficaci per trasferire gli extra profitti. Ma per la conferenza sarà anche necessario sostenere un tetto europeo al prezzo del gas e fissare un tetto nazionale facendosi carico, anche valutando uno scostamento di bilancio, dell'80% degli extra costi sostenuti da imprese e famiglie. Si punta poi alla realizzazione di termovalorizzatori utili a produrre energia elettrica e a favorire la ricerca sul nucleare pulito. Elisabetta Zaccolo, TGR Friuli Venezia Giulia. rinvio di una settimana per il processo che a Trieste chiama in causa Wärtsilä per comportamento antisindacale. Intanto rimane ferma in rada la nave che dovrebbe caricare i motori per la Daewoo. Antonio Rodà della WIL spiega che lo stallo continuerà fino a quando non ci saranno significativi passi avanti da parte della multinazionale finlandese. Wärtsilä chiede e ottiene il rinvio all'udienza sul presunto comportamento antisindacale. Sentenza il prossimo 21 settembre, a 3 settimane dalla scadenza dei 90 giorni dall'annuncio della proprietà finlandese di voler licenziare 451 persone. Il giudice del lavoro del Tribunale di Trieste ha accolto la richiesta per un problema tecnico su alcuni documenti che non è stato possibile esaminare da parte degli avvocati di Wärtsilä. Tra questi la richiesta della Regione di essere parte al ricorso dei sindacati. Intanto la nave, che dovrebbe caricare i 12 motori per conto di un'azienda sudcoreana, rimane ferma nel Golfo di Trieste. Ci sarebbe la volontà, da parte asiatica, di incontrare i sindacati per manifestare la propria solidarietà. Richieste di incontro ufficiali non sono arrivate. La solidarietà ci fa sicuramente piacere, ma noi, insomma, come abbiamo dichiarato anche nei giorni scorsi, noi non abbiamo un problema con Daewoo. Il nostro interlocutore è Wärtsilä ed è Wärtsilä che deve fare un passo indietro. Tenere ferma la OHL Fusion comporta spese molto alte. Si vuole arrivare ad una soluzione da parte dei sudcoreani. Il blocco sui motori in partenza deve rimanere fino a che non ci saranno dei spiragli che ci permettano di fare un altro tipo di ragionamento. Emergono anche le cifre che l'azienda ha ottenuto negli ultimi 5 anni dalle istituzioni in termini di finanziamento, quasi 50 milioni di euro. Secondo Wärtsilä, però, soltanto il 3% di questi sarebbero stati destinati all'attività produttiva, ovvero al settore che dovrà chiudere. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Parlamento l'altro ieri ha sbloccato lo stallo che riguardava il superbonus 110% e che teneva in apprensione le aziende del settore edile e i cittadini intenzionati a migliorare l'efficienza termica degli edifici. La situazione però viene giudicata ancora con grande cautela. Comparto delle costruzioni soddisfatto a metà per l'emendamento che modifica il sistema della responsabilità solidale in presenza di cessione del credito per il superbonus. Chi acquista i crediti, in primis le banche, non incorre in responsabilità se non in caso di dolo o colpa grave. Un passo avanti per disincagliare i crediti fiscali delle imprese, commenta il presidente di Confartigianato FVG Tilatti, che in regione stima crediti incagliati per circa 100 milioni di euro, la cui inesigibilità, avverte, potrebbe far saltare un migliaio di posti di lavoro nelle imprese artigiane. Segnale in sospeso almeno il 50% delle pratiche per il superbonus. Il presidente di ANCE FVG, l'associazione dei costruttori edili di Confindustria, Contessi considera l'emendamento cruciale per tranquillizzare il sistema finanziario, famiglie e imprese e per evitare di vanificare i benefici del primo strumento di politica industriale a supporto del settore. Il vicepresidente di ANCE Nazionale, l'udinese Petrucco, si attende una risposta forte dalle banche, ma da un primo giro di consultazioni con gli istituti di credito avviato dai vertici di ANCE Alto Adriatico, la situazione appare ancora di grande cautela. Da definire il concetto di colpa grave e i controlli che l'amministrazione finanziaria metterà in campo, altrimenti la cessione del credito difficilmente sarà scongelata, secondo il presidente di Confapi FVG Paniccia, che, soddisfazione a parte, resta critico sulla misura agevolativa. L'emendamento va nella giusta direzione, ma ancora non basta, affermano anche CGL e CISL Edilizia, che chiedono interventi strutturali. Sullo sfondo resta il problema dell'impennata dei prezzi dei materiali e del caro energia che riguarda l'intera filiera. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Comune di Udine al lavoro per ridurre l'impatto del caro energia. Tra le decisioni già prese, lo stop all'illuminazione esterna dei grossi monumenti, quasi certa la chiusura della piscina di via Pradamano. Se spegni l'illuminazione delle strade, si accende il problema sicurezza. Bisogna parlarne con le forze dell'ordine. Se riduci l'orario di apertura di un museo o di una biblioteca, devi comunque rispettare i contratti con le associazioni che vi lavorano. Se tagli un evento o le luci di Natale, immediate sarebbero le ricadute sugli operatori economici e sulla socialità. Settimana di incontri ad ogni livello e simulazioni con dati alla mano al Comune di Udine. Obiettivo: evitare contenziosi e reperire risorse per risparmiare almeno 500.000 euro. Entro il 22 ottobre, quando entreranno in funzione i riscaldamenti, le decisioni dovranno essere prese. Si prevede il conto per l'energia passerà da 5 a 10 milioni. Quasi certa la chiusura della piscina di via Pradamano, una parte dell'utenza sarà dirottata in quella di via Ampezzo. Ma chi organizza corsi di nuoto già parla di frequentatori arrabbiati e collaboratori che si rivolgono ad altre piscine per lavorare. Come segnale forte, sarà spenta l'illuminazione esterna dei grossi monumenti, dal Castello a Palazzo d'Aronco. L'obiettivo, indica il vice sindaco Michelini, è quello di non aumentare le tasse e non gravare sui cittadini. Si punta a disattivare almeno 2 ore per notte i lampioni delle aree non centrali. Dal crepuscolo sarà al buio il parco del Cormor, meglio fare jogging prima. Più complicato spegnere il parco Moretti, la centralina illumina anche altre strade. I comuni più piccoli, quelli più in difficoltà, hanno meno avanzo di bilancio rispetto a Udine. Mettervi mano però si traduce in meno opere e mette a rischio la tenuta dei conti di fronte a spese eccezionali. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lo stop ai contributi regionali fa ristagnare la domanda di auto elettriche o ibride. La curiosità rimane, ma le vendite restano al palo. Con 20 milioni e mezzo di euro, la regione Friuli Venezia Giulia ha contribuito all'acquisto di 5.000 auto elettriche o ibride. Oggi quei contributi, che si aggiungevano a quelli statali, non ci sono più e questo in parte ha determinato una riduzione della domanda. A non aiutare poi la liquidità delle famiglie, erosa da inflazione e bollette. Lo stesso pieno elettrico oggi costa di più. Nelle concessionarie, clienti incuriositi dalla nuova tecnologia non mancano, ma le vendite non sono esplose. Andrea Vincenti, concessionario. Il cliente per l'elettrico è già formato, cioè arriva e ha già le idee ben chiare. Il cliente che diciamo vuole conoscere si fa la domanda dove posso ricaricare la mia macchina, oppure i viaggi mi garantiranno di arrivare da punto A a punto B. Ecco, la preoccupazione è questa, di un cliente che vuole la sicurezza di arrivare alla meta. Preoccupazione legittima, visto che attualmente la presenza di colonnine nel territorio non è diffusa. A Trieste sono solo una ventina i punti di ricarica. Giulio Bernetti, direzione lavori pubblici. La filosofia non è quella di riempire la città di stalli sparpagliati lungo le strade, come se negli anni 60 avessimo messo una pompa di benzina ad ogni parcheggio. L'idea è quella di concentrare in hub al di fuori della strada queste stazioni di ricarica, in modo da dare certezza a chi va a ricaricare di trovare posto e non riempire i marciapiedi di colonnine e sottrarre sosta al pubblico. La regione Friuli Venezia Giulia ha appena rinnovato il parco macchine acquistando solo auto elettriche e dentro la prossima primavera verranno installate 250 colonnine che verranno usate dalle auto della pubblica amministrazione, ma saranno anche a disposizione dei cittadini. Anche i privati stanno investendo. Solo Enel X-Way punta in 2 anni a raddoppiare le 120 colonnine già presenti in regione. Si punta a impianti di nuova generazione che permettono la ricarica in 30-40 minuti. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ai test di ammissione per le professioni sanitarie all'Università di Trieste sono a disposizione 411 posti, di cui 180 per la laurea triennale di infermieristica. I candidati che si presentano oggi sono 630. L'Università di Trieste sta rispondendo in questi anni alla crescente richiesta di professionisti della sanità a livello regionale, continuando ad ampliare la disponibilità di posti programmati, che crescono complessivamente del 28% rispetto al 2020 e dell'85% rispetto al periodo pre-pandemia. In particolare, l'Università di Trieste quest'anno mette a disposizione 180 posti per le professioni infermieristiche, 40 per l'assistenza sanitaria, altrettanti per i tecnici dei laboratori biomedici, 30 sono i posti per i futuri fisioterapisti, altrettanti per gli igienisti orali e per i logopedisti. Le 7:32 minuti, torniamo alla cronaca. Subisce un'aggressione mentre è al telefono con la propria compagna. La donna, da un'altra regione, chiama subito il 112 e fa arrestare il rapinatore. In carcere è finito un 30enne che aveva appunto tentato di rapinare un uomo in un parcheggio di un supermercato a Udine. Il malvivente era salito a bordo dell'auto della sua vittima e l'aveva minacciato con un coltello. A salvarlo prima di tutto è stata la reazione di un altro automobilista, che con grande coraggio è intervenuto mettendo in fuga il rapinatore. Prontezza di spirito anche da parte della donna al telefono, che ha chiamato la volante della questura, che è riuscita ad arrestare il malvivente. L'arrestato dovrà anche rispondere del ferimento di un amico a colpi di coltello durante un'aggressione avvenuta poco prima e sempre a scopo di rapina. Per l'uomo la custodia cautelare nelle carceri di Via Sparto. dovrà rispondere di violenza sessuale un 65enne carnico che aveva importunato e molestato alcune donne all'autostazione di Tolmezzo. L'episodio risale all'inizio di agosto, ma l'esito giudiziario arriva solo ora perché è servita una complessa attività di indagine per risalire alle vittime che dopo i fatti si erano allontanate. Rintracciate, le donne hanno deciso di sporgere denuncia, ad inoltrare la richiesta di intervento alla polizia era stato il capo servizio dell'autostazione. Il 65enne rischia ora da 6 a 12 anni di reclusione per il reato di violenza sessuale. E la cronaca segnala anche l'ennesima truffa via web. A denunciarlo una 70enne triestina alla polizia postale. Aveva comprato un televisore sulla piattaforma vendita di un noto social network e aveva ricevuto un pacco e l'aveva pagato contrassegno e in contanti. Dentro però c'era solo una tavola di legno grezzo. La segnalazione tempestiva ha comunque consentito di bloccare la somma ricevuta dal corriere prima che fosse versata. Tutto il denaro è stato dunque restituito alla legittima proprietaria. Alle 7.34 apriamo la pagina della cultura. Ieri è cominciata a Pordenone Legge la festa del libro con gli autori, si è inaugurata ufficialmente al Teatro Verdi con un confronto dedicato a Praga. Dopo una giornata già ricca di anteprime, di incontri, molti gli appuntamenti in programma anche oggi, a cominciare dal libro della scrittrice israeliana Ayeter Gunder Goshen dal titolo Dove si nasconde il lupo, che narra del confronto tra madre e figlia. Un presunto assassino. Sarà presentato poi l'alfabeto della natura di Roberto Battiston, che ribadisce l'importanza della scienza di fronte al caos. Tra i primi ospiti ieri pomeriggio di Pordenone Legge il magistrato Edmondo Bruti Liberati, già procuratore della Repubblica di Milano ed ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Un rapporto delicato quello tra magistrati e giornalisti. Ne ha parlato Pordenone Legge proprio in tribunale l'ex procuratore capo di Milano Edmondo Bruti Liberati, autore del libro Delitti in prima pagina. Sotto accusa il processo mediatico. I processi fatti in televisione sono una distorsione grave, che non fornisce informazione, ma si tratta di sistemi di intrattenimento, i cosiddetti talk show, che fanno male alla giustizia e fanno male all'informazione. In ogni caso ci sono anche alcuni magistrati a distinguersi negativamente, secondo Bruti Liberati. Più sobrietà da parte dei magistrati, soprattutto da parte di quei magistrati che sono pochi ma molto attivi, che non fanno comunicazione e informazione ma fanno autopromozione di se stessi e delle loro indagini. L'ultima riforma della giustizia ha messo molti paletti sulla comunicazione tra magistratura e stampa. È una riforma ispirata a principi giusti, quello della presunzione di innocenza, ma che ha preteso di burocratizzare le forme della comunicazione e questo non va bene perché, per esempio, si privilegia il comunicato stampa, ma spesso la conferenza stampa è un modo più agile che poi consente anche ai giornalisti di fare domande e di porre delle critiche. Quindi, giusto il principio, l'attuazione è troppo rigida. Bruti Liberati condanna i rapporti privilegiati tra togati e alcuni giornalisti, ma una comunicazione è necessaria a suo modo di vedere. Un giornalista scrupoloso può avere bisogno di un contatto con un magistrato per avere un chiarimento su una questione tecnica e non c'è nulla di strano se si stabilisce questo contatto. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Tra i protagonisti del Festival Letterario Pordenonese anche i ragazzi, a loro sono stati dedicati gli appuntamenti di anteprima ieri mattina e di loro parla il nuovo libro di Enrico Galliano, Scuola di felicità per eterni ripetenti, ne abbiamo parlato con l'autore. Quella che ho cercato di raccontare io è una scuola dove l'insegnante prova a mettersi anche dalla parte degli studenti, cioè prova proprio a sedersi metaforicamente fra i banchi e lasciare che siano i ragazzi e le ragazze a insegnarti qualcosa, alla lavagna, con i loro begli schemini fatti di domande stranissime alle quali all'inizio non hai mai una risposta, oppure frasi estemporanee buttate lì che in realtà ti costringono a rivedere tutte le tue certezze di una vita. La scuola oggi, secondo lei, è ancora una scala sociale? Abbiamo quella, non abbiamo molto altro. Io sono figlio di due venditori ambulanti e se sono riuscito ad arrivare magari a insegnare o a scrivere libri è perché ho fatto il liceo scientifico e poi l'università, scuole pubbliche che mi hanno preso dalla situazione in cui ero e alla fine mi hanno fatto emancipare ed è ancora così. Il problema purtroppo è che molto spesso ci dimentichiamo di questa funzione livellatrice e quindi chi parte avvantaggiato esce avvantaggiato dalla scuola e banalmente abbiamo molti studenti che fanno il classico, i cui genitori hanno fatto il classico. E raramente studenti che i genitori hanno fatto il classico e loro vanno, non so, al professionale, vanno... E la stessa cosa al contrario anche. E questo secondo me è una cartina di tornasole di quanto la scuola non assolva sempre la sua funzione. Pordenone, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le direttrici dei giardini di Boboli a Firenze e della Reggia di Caserta, il conservatore dei giardini storici del Land tedesco del Baden-Württemberg e ancora il cofondatore della rete dei giardini botanici della Lombardia sono alcuni degli ospiti che tra oggi e domani si confronteranno al castello di Miramare sulla conservazione dei giardini storici durante il convegno dal titolo I musei verdi, la bellezza sostenibile. Interverrà anche Lionella Scazzosi, docente di architettura Politecnico di Milano e membro del comitato scientifico del castello e del parco di Miramare. Posso dire che Miramare è un complesso storico con una autonomia di gestione dal 2017 e un direttore responsabile con uno staff esperto. Questo non è consueto nella gestione dei giardini storici, soprattutto quelli più piccoli. Quindi è molto importante che ci siano questa figura di gestore e direttore di gestione e di responsabilità. Oggigiorno il pubblico sa apprezzare perché un giardino storico è così prezioso e importante. Non è solamente un patrimonio da contemplare o una bellezza da contemplare, da guardare, ma è, possiamo dire, un bene comune ed è una risorsa. Faccio un esempio. Una risorsa dal punto di vista, per esempio, delle conoscenze tecniche e scientifiche del passato, per esempio quelle idrauliche, che potrebbero essere oggi assai utili perché erano molto attenti ai temi della sostenibilità ambientale. Avevano una condizione di rispetto per la natura e di uso della natura diverso da quello nostro. E quindi... diciamo, il giardino storico è una risorsa. Riuscire a comunicare questo messaggio ai cittadini, agli amministratori, ai tecnici, eccetera, non è facile, ma è uno, diciamo, il compito fondamentale che ci aspetta. La glaciologa Florence Colleoni, ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, terrà una conferenza sui cambiamenti climatici al magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste nell'ambito della mostra Terra in trasformazione, 100 artisti da tutto il mondo. L'appuntamento è alle 18. A Colleoni abbiamo chiesto perché è così importante studiare cosa sta accadendo ai poli per comprendere gli effetti del riscaldamento globale. A causa dell'effetto dei cambiamenti climatici, i poli si riscaldano a velocità più grande di tutto il resto del pianeta. Ai poli ci sono le due più grandi riserve d'acqua dolce accumulate nelle calotte polari della Groenlandia nell'Artico e nell'Antartide al Polo Sud. E quindi quando queste due calotte polari risentono degli effetti del riscaldamento e cominciano a sciogliersi, il contributo va direttamente ad innalzare il livello medio globale del mare. Quindi noi cosa vogliamo sapere? A secondo dello scenario di emissioni di carbonio che seguirà la nostra traiettoria futura, a che velocità aumenterà il livello del mare e quanto aumenterà il livello del mare? A questo punto che cosa sappiamo già? Che cosa sapete già? Allora, sappiamo già che non possiamo fermare l'innalzamento del livello del mare, ok? Questo lo sappiamo perché comunque qual che sia lo scenario di emissione di carbonio nel futuro, ovvero l'ampiezza del riscaldamento medio globale, il ghiaccio assorbe il calore su lunghe scale di tempo, di fatto si scioglie molto lentamente. Quindi se noi smettessimo di emettere carbonio domani, comunque il ghiaccio che ha accumulato calore nella sua, diciamo, totalità della calotta continuerebbe a sciogliersi finché il calore sia rilasciato completamente. Quindi l'innalzamento del livello del mare è un fatto inesorabile, non possiamo evitarlo. L'unica cosa che possiamo fare è limitarlo se noi mitighiamo molto bene le nostre emissioni di carbonio, ovvero se invece che di seguire una traiettoria vicino allo scenario, diciamo, più pessimista, e che ci porterebbe circa a Trieste a più di 70 centimetri alla fine del XXI secolo. Cioè, seguiamo l'altro scenario mitigato che corrisponde lui agli accordi di Parigi, e questo implicherebbe soltanto 30 centimetri di innalzamento del mare a Trieste, però l'innalzamento ci sarebbe comunque. Prosegue a Udine il congresso nazionale dedicato all'ecopatologia della fauna, tra i temi sul tappeto anche le implicazioni sanitarie, umane ed animali, legate alla presenza di popolazioni selvatiche sul territorio. All'auditorium Sgorlon di Udine i lavori andranno avanti fino a sabato. Presentata a Roma la nuova offerta radiofonica della RAI, una proposta sempre più ricca che punta anche sugli strumenti digitali a partire dalla piattaforma RAI Play Sound. A parlarne l'amministratore delegato Carlo Fuortes e il direttore di RAI Radio Roberto Sergio. Radio RAI si avvia a festeggiare i 100 anni anche grazie alla digitalizzazione con RAI Play Sound. È la voce ufficiale dell'Italia nel mondo e una tra le prime piattaforme del paese. Dai nuovi palinsesti radiofonici emerge una proposta ampia, divisa tra canali generalisti e offerte per genere o per specifici gruppi di utenti. Confermati dall'amministratore delegato Fuortes anche i numerosi investimenti non solo in tecnologie e studi. In impianti investiremo nel DAB, continuando la rete DAB, e ovviamente investiremo anche nella evoluzione di Rai Play Sound. Quindi vecchio strumento ma attualissimo. Ci sarà anche un canale per i giovani che sarà ospitato da un meta studio che consentirà di aprire delle finestre in diretta audio e video, mentre i numerosi podcast hanno sempre più successo. Abbiamo una infinità di podcast originali e non che hanno reso ormai questa piattaforma sostanzialmente, io dico, leader del mercato. Tra le tantissime novità, l'informazione che sarà sempre più presente dal primo mattino e l'aumento delle finestre dei programmi radio in TV. Una notizia di basket, doppia vittoria per le squadre friulane nella Supercoppa di A2. Udine ha superato Ferrara al Carnera, mentre Cividale a Lignano si è imposta su Mantova. Più netta la vittoria degli uomini di Bonicioli, che si sono imposti per 72-58, mettendo le cose in chiaro fin dal primo parziale, chiuso con 11 punti di margine. Rimonta ferrarese nel secondo quarto, con le squadre che sono andate all'intervallo lungo sul 48 pari. Nella seconda metà della partita Udine ha preso il volo grazie ad una prestazione di squadra. 9 uomini a referto, con Esposito e Mussini, autore di 13 punti a testa. Più complicato il successo dei Ducali, 76-58, con i padroni di casa costretti a rimontare uno svantaggio che era arrivato a 14 punti nel primo quarto. A metà partita i punti da recuperare rimanevano 9. Decisiva a quel punto la prestazione in difesa con i Lombardi, che hanno segnato solo 22 punti in 19 minuti, miglior marcatore di Cividale Miani con 20 punti. Le due squadre friulane sono in testa, punteggio pieno nel girone. La supremazia verrà decisa dal derby in programma sabato al Palacarnera. Siamo alla rassegna stampa. Trieste torna a 7, il titolo che campeggia sulla foto delle riprese della nuova produzione Netflix sul Ponte Rosso, che apre la prima pagina del quotidiano triestino, che riporta come gli alberghi siano pieni per le riprese del film Our Man from Jersey, con protagonisti Halle Berry e Mark Wahlberg. Halle Berry è stata fotografata ieri sera a Trieste, nei giorni scorsi aggiungiamo anche a Pirano, altra location dello stesso film. Titolo e tema centrale del piccolo di Trieste, riservato al Carso, dopo gli incendi e le idee per salvarlo. Fra le priorità, limiti alle specie aliene, in particolare l'ailanto, e zone cuscinetto. La Slovenia accelera, reimpianta arbusti, erbe, cereali. Nella cronaca anche l'avvertenza Varsila e la truffa di una signora che ha comprato una TV online e si è vista recapitare un pezzo di legno. Nelle pagine della cultura, la mostra Miramare sulla passione per la botanica di Massimiliano e Carlotta trova spazio in prima pagina anche il primo gol triestino in Champions League, cioè quello di Tommaso Pobega. Molesti alla Dunata, alpini diffamati, telecamere a Udine. Si parla dunque della Dunata dell'anno prossimo e viene riportato tra virgolette il punto di vista dell'Associazione Nazionale Alpini sulla prima di Udine del Messaggero Veneto. L'ANA, scrive al giornale, ha deciso di passare al contrattacco. La fotonotizia centrale è su Pordenone Legge, altri richiami in prima. terza corsia, il tratto al Visopoli Porto Gruaro sarà completato con 6 mesi di anticipo. E ancora export trainante per la crescita, ma pesano guerra e prezzi. E per la cronaca, attenta a 2 rapine con il coltello, bloccato con il taser e arrestato, è la notizia che vi riferivamo prima, a Udine in via Cividale. Il pezzo principale della cronaca locale è dedicato alle aggressioni ai sanitari negli ospedali. L'appello dei medici è ad agire d'ufficio senza la denuncia. Il piccolo di Gorizia apre con il potenziamento del Tribunale di Gorizia Baldovin, cioè la magistrata Lucia Baldovin alla guida della procura, poi altri rinforzi, arriva da Trieste con un incarico temporaneo di 3 mesi rinnovabile. A dicembre gli uffici giudiziari potenziati con 3 magistrati, scrive il quotidiano, che mette al centro pagina la foto del finanziere in concedo Francesco Villan. Nel 1972 salvò a Trieste 2 ragazze 12 cadute in una cisterna di nafta. Fabiola Gagliussi e Alessandra Bergamo vorrebbe rivederle. Le pagine di Monfalcone aprono con i 67 alloggi di social housing pronti nell'area ex Gaslini, aperta la procedura per la manifestazione di interesse per gli alloggi a canone calmierato. A Grado scopriamo che è partito il restauro del Hotel Adria, diventerà un 4 stelle. Il piccolo di Gorizia riporta anche della morte a 80 anni del regista e speleologo Rinaldo Saunic. Prima pagina del Messaggero Veneto di Pordenone, sostanzialmente identica a quella di Udine. Ovviamente l'edizione della destra Tagliamento apre la cronaca locale su Pordenone Legge con una foto a tutta pagina dell'evento di apertura. Troppi costi, lo sport in ginocchio, questo è il titolo di apertura delle pagine pordenonesi sulle piscine. Dal calcio dilettantistico alle piscine, il prezzo dell'energia manda al tappeto le società. Foto notizia centrale del Gazzettino, anche qui dedicata a Pordenone Legge. In prima la vicenda del nuovo stadio, il sindaco dice i tifosi sono pochi, le priorità sono altre e fa infuriare i tifosi, ma c'è chi sta con il primo cittadino. Stessa apertura anche per la sezione del Gazzettino dedicata al Friuli, che ha come fotonotizia l'accordo in un'azienda di Pocenia per migliorare la temperatura in fabbrica dopo che quest'estate nei reparti produttivi si era lavorato anche con 40 gradi. Ma c'è anche la fotonotizia del vertice in prefettura Udine per fare il punto sulle aggressioni al personale dei trasporti. 7.50, ancora il tempo per qualche segnalazione. 4 giorni dedicati alle moto fuoristrada su un'ampia zona verde allestita per l'occasione, l'Italian Bike Week, che comincia oggi a Lignano, nella quale le principali case motociclistiche metteranno a disposizione degli appassionati il meglio dei modelli off-road del 2022 e del prossimo anno. Una vetrina specializzata di dimensioni uniche in Italia, garantiscono gli organizzatori. Gli appassionati potranno anche partecipare con i propri mezzi a tour fuoristrada progettati per l'occasione. The Groove Factory, la scuola di musica moderna con sede a Martignacco, fondata e diretta da Stefano Palaferri e Alessio Turchetti, festeggia i 15 anni di attività con una serata al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con inizio alle 21, uno spettacolo di musica, aneddoti con varie band formate da allievi e insegnanti presenti e passati di The Groove Factory. Per ripercorrere l'attività della scuola di musica moderna saliranno sul palco del Teatro Nuovo anche il trombettista di Marco Mengoni, Francesco Minutello, il pianista Rudy Fantin, il cantante Michele Poletto, la scuola di danza Ceron e il coro Voci in Volo. La fiaba per voce e chitarra di Piero Sidoti, Amore fino a prova contraria, va in scena alle 21 al Parco di Sant'Osvaldo a Udine. Per celebrare il centenario di costituzione della sezione degli Alpini, Guido Corsi di Trieste, concerto del coro degli Alpini Nino Baldi a Trieste in Piazza Cavana alle 18. Infine un'informazione di servizio, il comune di Duino Aurisina informa che dalle 21 alle 24 di stasera sarà sospesa la fornitura idrica al villaggio del pescatore per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione della rete idrica. Al ripristino dell'erogazione d'acqua, il comune raccomanda di farla scorrere per alcuni minuti finché non si presenterà limpida. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio, che è stata redatta da Nada Ciocche e Andrea Vardanega, che l'hanno anche condotta in studio. Alla guida della parte tecnica Mauro Coloni e Federico Comar, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei nostri programmi e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11:10 Vue Ofevelindi parlerà degli allievi dell'ISIS Fermo Solari di Tolmezzo e del loro impegno nel settore agroambientale. Alle 11:19 ci sarà Vintage di Econ, Carlo Muscatello e Leonardo Zanier. Il primo ospite di oggi è Simone Cristicchi, cantautore e attore, vincitore di Sanremo 2007, che ha raccontato il dramma degli esuli istriani e dalmati in Magazzino 18. Si prosegue con Marina Maras, insegnante di yoga e meditazione, ma specializzata anche in campane tibetane. In programma le musiche di PFM, Gianni Togni e Sex Pistols, Genesis e Sergio Endrigo. L'edizione meridiana della GR alle 12:30, quella vi diamo appuntamento, ma l'informazione dal territorio prosegue anche sul nostro sito rainews.it/tgr/fvg e sui nostri profili social TGR Rai FVG. A tutti grazie per essere stati con noi, buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.